È con noi Peter Marcias per parlare del suo film Uno sguardo alla Terra, che sarà in programmazione giovedì 3 maggio a Roma, all'Apollo 11. Peter, ben trovato e ben ritrovato. Ciao, grazie. Lo raccontiamo brevemente? Certo, allora, Uno sguardo alla Terra è un viaggio, se così lo possiamo chiamare, che ho fatto partendo dalla Sardegna e portando, come dire, in giro per il mondo L'ultimo pugno di terra, che è un film, un caposaldo del cinema documentario sardo, e l'ho mostrato a grandi documentaristi internazionali, tra cui Juan Bing, Brillante Mendoza, Claire Simon, e c'è anche l'italiano Vincenzo Marra. Dopo la visione di questo film è venuto fuori come ti posso dire, un grande come dire, calderone di informazioni che in primis lo stato di salute del cinema documentario, secondo anche lo stato di salute della Terra, perché i registi sono anche dei pensatori e dunque ci hanno raccontato anche un po' a modo loro le cose che stanno succedendo nel mondo. Sì. Senti, come nasce tutto? Ma guarda, nasce tanti anni fa perché, come ti dicevo, nell'ultimo pugno di terra, questo documentario di Fiorenzo Serra, fu bloccato negli anni 60 perché fu un film commissionato dalla Regione Sardegna, però poi fu bloccato perché non piacque agli stessi committenti della Regione, perché mostrava una Sardegna che non era interessante per quei politici dell'epoca. Dopo tanti anni il film è stato restaurato dalla Cineteca Sarda, Società Umanitaria, con la Cineteca di Bologna. Ha avuto sempre questa idea di raccontare la Sardegna di Fiorenzo Serra e di raccontare che cosa c'era dietro quel grande regista. Allora però ho pensato, visto che dopo Fiorenzo Serra non c'è più, ho detto: ma fammi portare in giro questo film e fammi parlare di questo film con illustri colleghi di Fiorenzo Serra, però odierni, insomma, che sono i grandi documentaristi che ho intervistato. È un po' nato da lì, un po' dalla curiosità di parlare di cinema del reale, di cinema documentario, ma nello stesso tempo, come ti dicevo prima, raccontare anche che cosa sta succedendo nel mondo, perché il film poi, come ti ho detto, è stato girato un po' in giro, qualche scena anche in Sardegna, perché sono riuscito a portare qualche grande documentarista Sardegna, però è stato girato soprattutto in Cina, ti faccio nomi tra Pechino, Manile, Barcellona. Abbiamo intervistato a Pechino Wang Bing, che è uno dei forse più grandi registi documentaristi cinesi, che ha vinto peraltro il Bardo d'Oro a Locarno la scorsa edizione. Ed è stato bello questo di parlare del mondo, parlare dei popoli, parlare anche di migranti, parlare situazione del lavoro, insomma, è un film che abbraccia tantissime tematiche. E come ti dicevo prima, i registi come una sorta di termometro dello stato di salute della Terra. Sì. Peter, un'altra curiosità è relativa alla terra, alla Sardegna, visto che stiamo parlando di più di 50 anni fa, e come la vedi cambiata? Ma guarda, ti racconto questo aneddoto. La regista afghana che ho intervistato, che gentilmente poi è venuta in Sardegna, perché la mia prima idea era di far venire i registi e farli ripercorrere i luoghi di Fiorenzo Serra. È lei, che si chiama Sara Karimi, che è una regista, forse una delle poche registe donne afghane, quando ha visto il film di Fiorenzo Serra, all'ultimo pugno di terra, mi ha detto: guarda, partecipo perché mi ha colpito tantissimo, perché la Sardegna di quegli anni mi sembra l'Afghanistan di ora. Dunque, un po' prendo le sue parole. Allora, diciamo, la nostra Sardegna, la mia Sardegna è tanto cambiata, perché comunque gli anni hanno, come dire, dato la modernità e tutto. Però continuo a pensare che il popolo, forse, come dire, gli abitanti della Sardegna conservano ancora quella bellezza, quella integrità del popolo dell'epoca. E dunque la terra sì è cambiata, però forse è cambiata forse dal punto di vista proprio logistico, insomma, dal punto di vista materiale, però le persone non sono cambiate, secondo me sono rimaste quelle di allora, Sì, insomma. sì. Oh Peter, in base a questi sguardi internazionali, su cosa si sono basati, i punti di vista? Parlavi prima chiaramente dell'ambiente e delle migrazioni. Quali altri, punti focali ci sono? Ah, guarda, si è parlato tanto di politica, si è parlato tanto di religione, del regista Mehrhad Hosseini, che è un regista, uno dei più bravi registi iraniani, che vinse qualche anno fa un Orso d'Argento al Festival di Berlino con un documentario sulle carceri femminili iraniane. Ci ha parlato della condizione delle donne, che lui ha tante volte raccontato nei suoi film. Wang Bing ha cercato di fuorviare alle domande politiche sulla Cina di oggi, però nello stesso tempo le sue dichiarazioni sono state molto politiche. E poi c'è un grande pensatore, un grande regista che è José Luis Guerin, che Scusi. da Barcellona ci ha raccontato anche lui la No, ma manca situazione quello. europea, che Manca anche lì quell'anello. si parla di Manca un tantino. soprattutto di politica. Perdone. Dunque, Posso un intendere? documentario, come ho detto prima, che Faccia, no. parla di tante cose. Infatti, quando poi mi viene chiesto, ma il film, sì, è un film sul cinema, perché obiettivamente Devo farlo questi vedere. grandi registi parlano dopo aver visto un documentario, però nello stesso tempo si Scusi, parla faccio di così, tante lo scrivo cose. con la Dunque, è punta del difficile pennarello su a qua. volte, come dire, Scusi, perdoni. catalogarlo in una, soltanto in una situazione, insomma. Dunque, sono tante le cose. Nello stesso tempo è, come ho detto Grazie. prima, un film, ma soprattutto che parla di cinema e parla anche di come loro, i grandi registi, tra cui, come dicevo, l'italiano Vincenzo Marra, che è uno dei forse più grandi documentaristi italiani, che comunque fa anche film di fiction, ci ha raccontato anche come ha lavorato, diciamo, le prime volte, come ha lavorato a Napoli, come sceglie i suoi protagonisti delle sue storie documentarie. Basta pensare all'amministratore, a Estranei alla massa, all'Udienza è aperta, che hanno raccontato soprattutto quella regione, la Campania, che hanno raccontato Napoli, insomma. Senti, che tipo di distribuzione hai pensato? Ma guarda, questo è il mio terzo film con Istituto Luce Cinecittà, dopo la nostra quarantena e Silenzio e Parole. E il film è già in giro già da un po', insomma, sta girando già da ottobre dell'anno scorso, del 2017, perché è stato al Festival Visioni dal Mondo come anteprima, è stato a Trieste in concorso per il premio Corso Salani, è girato tantissimo, siamo stati a Guangzhou, un festival di documentari in Cina abbastanza apprezzato, Londra e tanti altri. Adesso stiamo facendo un tour promozionale, ci sarà un evento giornaliero dal 3 maggio in poi, e fino al 30 maggio toccheremo tantissime città italiane. Vi cito almeno quelle principali di questi giorni: c'è il 3 Roma, il 9 a Sassari, il 10 Cagliari, l'11 Oristano, il 12 Alghero, 13 Firenze, 15 Torino, 30 maggio Milano al Cinemino. Insomma, secondo me è buono, perché è un momento anche buono per il documentario. Bisogna sempre augurarci di poter raccontare la nostra nazione, di poter raccontare anche quello che ci piace, che ci interessa, però poi dobbiamo anche augurarci che la gente ci segua e che venga poi al cinema, nonostante sia un momento un po' di calo, perché essendo un po' la stagione sta un po' finendo, insomma. In chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Ah, per sapere di più, comunque le pagine lì dell'Istituto Luce, la mia pagina personale, ma comunque digitando uno sguardo alla terra di Peter Macias, ci sono tantissime già notizie. Sta andando discretamente bene la questione stampa, l'hanno visto tantissimi giornalisti, e il film, insomma, sta piacendo. È un film, come ho detto prima, diciamo non difficile, è un film che vuole raccontare veramente che cosa sta succedendo nel mondo, e lo fa attraverso il cinema, che è forse una come dire, delle arti più dirette, se vogliamo. E dunque, niente, siamo contenti che adesso sta arrivando al pubblico. man mano. Ci sarà poi in autunno anche una prima televisiva, però ancora non possiamo svelare dove sarà mandato in onda. Senti, vale come uscita nazionale la data del 3? Sì, vale l'uscita, sì, del 3, perché comunque dal 3, dalla data romana, come vi ho detto prima, poi ci sarà un susseguirsi di date giorno per giorno che vi ho elencato tra la Sardegna, la Toscana, diciamo il Piemonte, insomma, man mano toccheremo tutte le maggiori città italiane. Bene, allora ricordiamo Uno sguardo alla terra di Peter Marcias, in uscita in sala dal 3 maggio con proiezione a Roma all'Apollo 11. Peter, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci grazie, presto. Grazie, crepi lupo, un abbraccio a voi, grazie.